Claudio Scajola è soddisfatto. I ministri dell'energia del G8, d'intesa con Cina, India e Corea del Sud, hanno dato il via libera a un nuovo quadro internazionale per facilitare il risparmio energetico, combattere il cambiamento climatico e soprattutto l'impennata dei costi del carburante. Considerando che i paesi coinvolti da soli pesano per il 65% della domanda di energia e di emissioni di biossido di carbonio, si tratta di una buona notizia. Certo è che in un momento in cui il petrolio quota poco meno di $140, forse servirebbe qualcosa di più. La soddisfazione dei ministri non basta a nascondere la preoccupazione per il caro greggio e l'invito ai paesi produttori ad aumentare l'offerta non può essere niente più che un invito. Sarà per questo che si è concordato un ruolo tutto nuovo per il nucleare, per diversificare il mix energetico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. L'altra faccia della medaglia, cioè l'inquinamento, prevede che entro il 2010 siano pronti 20 impianti dimostrativi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, gas alla base dell'effetto serra, impianti che saranno operativi prima del 2020. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore.